Dunque, le lezioni scorse, se non ricordo male, sì, adesso arriva. Se non ricordo male, avevamo pressoché finito il discorso query anziché eravamo nel discorso del per quale motivo andare a dividere una grossa tabella in n tabelle. Quindi avevamo visto questi i due grossi problemi, ovvero ridondanza dei campi e ridondanza dei record. Quindi sostanzialmente il discorso era quando io vado a creare un database, una serie di informazioni che vado ad inserire più volte, per esempio nome, cognome o cose del genere, questo mi crea una ridondanza dei dati. La ridondanza dei dati va di pari passo con una mancanza di congruità dei dati. Perché se l'azienda, ho fatto l'esempio la volta scorsa, cambia il numero di telefono in corso d'opera o l'indirizzo, rischio di avere due PIP SRL con due numeri di telefono diversi, due indirizzi diversi e così via dicendo. D'accordo? Questo per la ridondanza dei campi. Diciamo. Per quanto riguarda invece la proliferazione dei campi, se io ad esempio voglio andare a inserire tutti i prodotti che quell'azienda mi ha acquistato quel giorno, o metto n colonne, ma con il rischio poi che queste n colonne diventano n alla seconda, n alla terza, n alla quinta, che non ha assolutamente nessun tipo di senso, oppure trovo un'altra soluzione. Quest'altra soluzione quindi è la possibilità di andare a dividere una tabella in sottotabelle. Okay. No, questa è l'ultima lezione di tipo teorico, già dalla fine di questa, all'inizio della prossima, comunque inizieremo con il computer. Ecco, mi chiedo, quanti di voi hanno l'Access XP? Io che allora, mettiamola così. Quanti di voi hanno il 2000 o 2003 o XP? Ok. Quanti di voi hanno il 2007 o 2010? No, è giusto mettere in tanto, non lo so, io a questo punto magari faccio il 2010 perché su Windows ho installato il 2010, no, perché anche sull'altro il 2007. Vabbè, vediamo un attimo. Sicuramente la prima lezione li farò sul 2010. Allora, concettualmente non cambia nulla, signori, è solo la grafica chiaramente diversa da una versione all'altra, però cambia tutto a livello di stimare del tempo. Perché c'è solo per creare una tabella sul 2000/2003 si va sul pulsante tabelle e sul pulsante crea. Nel 2007-2010 si va sulla voce crea alla voce tabelle, che non è banale, perché cambia proprio tutto il menù. Per cui insomma vedremo magari di fare dei raffronti e vedere un attimino che cosa succede. Ok? Vabbè. Vabbè, anche della mente scambiare. No, ma sicuramente. Il problema non è tanto cambiare, nel senso che se uno il programma lo conosce già e sa quali sono le funzioni, intendiamoci, signori, la difficoltà maggiore di usare un computer dal mio punto di vista, per carità. Sì, basta capire come arrivarci. E, ma prima di tutto è sapere che un programma mi permette di fare qualcosa. Perché io lo vedo quando ho a che fare con programmi nuovi, tipo ad esempio io non sono un programma di grafica, per cui per me il programma di grafica è tipicamente un programma nuovo. E sapere che con quel programma riesco a fare quella cosa. Se non lo so, non mi pongo nemmeno il problema di come farla. Viceversa, se uno ha già usato il programma e sa che si può fare quell'operazione, deve scartabellare un po' nei menu e prima o poi lo trova. Cioè, voglio dire, mediamente, uno schiaccia di qua, schiaccia di là, ormai lo fa. Quindi, per chi ha già confidenza con l'Access, che sia il 2000-2003, passare al 2007-2010 è un po' più faticoso, ma ci si arriva. Il problema è quando uno non ci ha mai lavorato sopra, perché a quel punto lì dice, se tu mi avevi detto che devo schiacciare prima su tabella e poi su crea, e qua invece c'è prima crea e poi tabella, però mi cambia tutto il menu, è già un po' più laborioso. Comunque, vedremo magari di fare un po' e un po', adesso ce la giocheremo. Va bene. Allora, signori, andiamo avanti con questo discorso dal punto di vista teorico, e sono gli ultimi concetti e poi passiamo al computer e vediamo in particolar modo con quali criteri passare da una tabella a più tabelle. La settimana scorsa abbiamo detto, va bene, ma in realtà nel momento in cui io vedo che c'è una proliferazione di campi, divido le tabelle in maniera logica, in maniera ad argomento, avevamo usato questa parola, ad argomento. Quindi ci sarà l'argomento clienti, l'argomento prodotti, l'argomento fatture. Ognuno di questi argomenti rappresenterà una tabella. Quindi, l'argomento prodotti avrà la tabella prodotti, l'argomento fatture avrà la tabella fatture e così via dicendo. Tre tipi di relazioni. Tra tabelle, sto parlando. Una relazione 1 a 1. Una relazione una a molti, questo simbolo che è un 8 rovesciato, in matematica vuol dire infinito, e in terminologia database significa molti, 1 a molti. Una relazione molti a molti. Insieme invece che molto o infinito si usa la n, 1 n, n a n, insomma ci interessa poco, quello che ci interessa è il concetto che ci sta alle spalle. Allora, sicuramente quella centrale è la più utilizzata in assoluto, la prima è utilizzata relativamente poco, l'ultima è abbastanza utilizzata. Insomma, noi facciamo un problema di classifica e cerchiamo di capire che cosa significa. Allora, la relazione uno a molti si fa quando per ogni record di una tabella ne possono esistere, sottolineate bene possono, possono anche non esistere, ne possono esistere tanti in un'altra. E facciamo un esempio. Apriamo proprio la tabella clienti, tabella prodotti, la tabella fatture. Ora, per ogni prodotto ci sono tante fatture? Sì, ogni prodotto può essere in molteplici fatture. Quindi questa relazione qua, 1 a molti, si può fare. Per ogni fattura ci possono essere più prodotti? Sì. Sì. Per ogni cliente ci possono essere più fatture? Per ogni fattura ci possono essere più clienti? No. E quindi già al contrario. Per ogni cliente ci possono essere più prodotti? Sì. Per ogni cliente ci possono essere più prodotti? Sì. Per ogni cliente ci possono essere più prodotti? Sì. Per ogni cliente ci possono essere più prodotti? Sì. Facciamo che se lo dire un'altra volta perché la risposta è no. Per ogni cliente ci possono essere più prodotti? No. No signori, il cliente non è che prende il prodotto e se lo porta a casa, al cliente viene fatta una fattura. Per ogni cliente ci sono più fatture, per ogni fattura ci sono più prodotti, ecco il legame tra cliente e prodotto. Il cliente può acquistare più prodotti e lo metto tutto solo. Ma com'è che gli acquisti i prodotti? Tramite? Una fattura? Sì. Cioè non è che il cliente entra nel negozio, si porta dicendo, a casa, non è un rapporto diretto, non è un rapporto diretto, cliente, diretto. Cliente, prodotto. Non è un rapporto, c'è diretto. Un avviamento della fattura. Esattamente. Ok. Ora signori, queste sono le difficoltà nei database, qualsiasi forma sia il database, cioè e il comprendere queste relazioni. Allora, è vero che io al cliente posso vendere più prodotti, questo è pacifico, siamo d'accordo tutti, ma non c'è un rapporto diretto tra il cliente e il prodotto, il rapporto è la vendita e come tale c'è una fattura e come tale il legame tra il cliente e il prodotto è la fattura. Quindi per ogni cliente ci sono tanti prodotti, la risposta è no, a meno che non ci sia la fattura di mezzo, e allora funziona, perché vedete da qua, per ogni cliente ci sono tante fatture, per ogni fattura ci sono tanti prodotti, ecco che per ogni cliente ci sono tanti prodotti, ma è una relazione non diretta. Questa è una delle grosse difficoltà di un sistema di database, perché il libro mi dice come si fa una relazione, ma non mi spiega i concetti che ci stanno dietro. Analogo concetto c'è nell'utente che va in biblioteca a prendere un libro. Per ogni utente ci sono tanti libri? Dai. No, per ogni utente ci sono cosa? Tanti presidi. Per ogni presidio ci possono essere tanti libri. Ecco che la relazione utente libro effettivamente può essere una molte, ma ci deve essere qualcosa di mezzo. È chiaro, signori? Ok. Poi il corso sostanzialmente adatterà proprio nel capire questi concetti. Faremo tanti esempi, partiremo prima a fare tanti piccoli esempi. Quindi prima chiaramente vi farò vedere in maniera un pochino veloce, in realtà, perché queste cose le abbiamo fatte per chi c'era l'anno scorso, già l'anno scorso, per cui per chi c'è solo quest'anno chiederò un pochino di correre, ma correre limitatamente, cioè non è che... Però insomma vorrei andare un pochino velocemente sul concetto tabella, maschere, query. Mi soffermerò di più sulle query, perché le query sono una parte estremamente importante. Però insomma, sulla struttura e cose del genere andremo un po' rapidi. Perché la parte fondamentale del corso vorrei che fosse un insieme di esempi. Quindi un esempio semplice, un esempio più complesso, un esempio semplice, un esempio più complesso. E poi, verso la fine dell'anno, prendere magari degli esempi che mi portate voi. Tipo, l'altro giorno, questa settimana, parlando con qualcuno di voi mi diceva: ma io ho questo problema che mi piacerebbe risolvere. Vabbè, allora prendilo e vediamo magari di provare a risolverlo in aula. Quindi anche sfociare in qualcosa che effettivamente qualcuno potrebbe usare per vedere che ACES non è solo teoria, ma al contrario è poi un'applicazione pratica. Ok. Allora, questa è intuitivo, relazione uno a molti. Clienti e prodotti è una relazione molti a molti. Perché? Perché la relazione uno a molti si vede da quello. La relazione uno a molti è tra una tabella a un'altra tabella. La relazione molti a molti invece è tra la tabella 1 e la tabella 2, diciamo così. La relazione molti a molti invece è sempre tra la tabella 1 e la tabella 2, ma in mezzo c'è la tabella 3. Fatta in questa maniera: 1 a molti, 1 a molti. Poi queste cose le vedremo anche nella pratica, signori. Adesso cercate di capire un attimo il meccanismo più o meno che ci sta alle spalle, poi lo approfondiremo. In generale, comunque, sappiate che la relazione 1 a molti vuol dire che per ogni record di una tabella ne esistono tanti nell'altra. E questo è di facile intuizione. Nella relazione invece molti a molti c'è una tabella in mezzo. Nella relazione molti a molti non si può fare direttamente. Ci deve essere qualcosa che faccia da parte. La relazione 1-1 invece è è di nuovo fatta tra la tabella 1 e la tabella 2. Ma salute. Ma la tabella 2 è da vedersi come una sorta di appendice della tabella 1. Scrivetelo e poi approfondiamo il discorso. Quindi la tabella 2 nella relazione 1-1 è una sorta di appendice della tabella 1. Adesso approfondiamo questo discorso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella tabella 2 si mettono quei campi, nella tabella 2 si mettono quei campi che starebbero tranquillamente nella tabella 1. Ma che si ritiene che la maggior parte delle volte sarebbero vuoti. D'accordo? Facciamo un esempio molto semplice. Una rubrica telefonica. Io metto nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, bla bla bla. Poi arriva il mio amico che ha una casa in montagna e una casa al mare. Ora, nella tabella 1 dovrei andare a mettere indirizzo della casa al mare, indirizzo della casa in montagna, numero di telefono a casa al mare, numero di telefono a casa in montagna, ma verosimilmente, poi per carità non so i vostri amici come siano, ma do per scontato che su 100 persone che conosco, la casa al mare e la casa in montagna ce l'avevano magari una decina di persone, non tutte 100. Viceversa un numero telefonico ce l'abbiano, se non proprio tutti i 100, almeno 99 ce l'abbiano. D'accordo? Esatto. Quindi i campi casa in montagna, casa al mare, numero di telefono montagna, numero di telefono al mare li metterò in una tabella a parte e creo una sorta di una relazione 1 a 1. Quindi ci metto dei campi che potrebbero tranquillamente stare nella tabella principale, ma che verosimilmente, presumibilmente saranno molte volte vuoti. Per cui mi sposto, per non occupare spazio inutile, in una tabella attiva. Però devo considerare l'inizio, diciamo. Assolutamente no, assolutamente no. Ti possono aggiungere dopo. Sì. I campi si possono aggiungere in corsa. E anzi, se, come dicevo con qualcuno di voi al termine della scorsa settimana, se il database è fatto in maniera ragionata, non c'è nessuna difficoltà ad aggiungere dei campi in corsa. Il problema è lo spostamento delle relazioni. Quello sì che diventa un problemone. I problemi fondamentali nei database sono due. Uno, modificare una relazione. Una volta che una relazione è fatta, ci devo pensare 10 volte. Perché quella relazione lì, un domani da cambiare, è difficile. Non è impossibile, ma molto difficile. L'altro enorme problema è accorgersi in corsa di una ridondanza dei campi o di una proliferazione dei campi. Cioè accorgersi dopo che io ho inserito 400 record che ad esempio nome e cognome io lo sto inserendo 10 volte di seguito è una brutta esperienza. Nome e cognome non cambia, però vuol dire nome e cognome indirizzo e li sto inserendo tante volte, è una brutta esperienza, perché poi quell'indirizzo lì verosimilmente lo devo chiappare e metterlo dall'altra parte. Però richiede un bel po' di lavoro. Devo fare una tabella, metterla in relazione, fare una query di accodamento, fare una query di aggiornamento, cancellare da una parte, cioè si può fare ma diventa laborioso. Mentre l'aggiunta di un campo si può fare e tutto sommato non desta particolare preoccupazione. Ok, signori. Allora, la relazione 1-1, abbiamo detto, si fa tra una tabella e un'altra. Ma le tabelle abbiamo detto essere fatte da campi. Quindi, quale campo prendo nella tabella 1 e quale campo prendo nella tabella 2? Essendo una relazione 1 ad 1, prenderò la chiave primaria 1, quindi la chiave primaria della tabella 1, e la collegherò con la chiave primaria della tabella 2. Che dovrebbe essere abbastanza pacifico. Cioè, se io ho il codice fiscale da una parte e gli voglio andare a inserire le case al mare, la casa in montagna, sempre di quel codice fiscale lì, devo prendere il codice fiscale dall'altra parte. Li metto in relazione e quei due è come se fossero una sola unica tabella. Siete d'accordo? La relazione 1 a molti si fa tra la chiave primaria della tabella 1 con un campo duplicato nella tabella 2. Cosa vuol dire il campo duplicato nella tabella 2? Vuol dire che dovrò avere un campo del tutto identico alla chiave primaria della tabella 1. A mettere nella tabella 1 quel campo sarà univoco, nella tabella 2 si può ripetere tante volte. Non è più una chiave primaria. Non è più una chiave primaria, è semplicemente il collegamento. Lo ripeto. Grazie. Mentre nella chiave, lo puoi vedere quando si farà, è più semplice da farsi che non spiegarsi. Immaginatevi il campo duplicato come proprio un campo di collegamento, no? Quindi nella tabella 1 io prendo la chiave primaria, cioè quella chiave che identifica univocamente il record. Nella tabella 2 io prendo un campo del tutto identico, ma quel campo non è più la chiave primaria della tabella 2, ma è un campo di collegamento, quindi potrà essere ripetuto tante volte. Facciamo subito un esempio così può risultare più semplice. Allora, tabella 1. Tabella 1 avrà il codice conto, supponiamo di essere in banca, quindi ci sarà il conto numero 100 e il conto numero 101, nome, cognome, quindi Mario Rossi, Luca Bianchi, con tutte le informazioni del caso, e poi ci sarà la tabella 2 con tipo operazione ed importo. Allora, il tipo di operazione sarà bonifico da 1000 euro, bollettino da 200 euro, bonifico da 3000 euro, altro bonifico da 10.000 euro. Ora, capite bene che le due tabelle in qualche modo devono essere raccordate, perché io il bonifico da 1.000 anziché quello da 3.000, come lo faccio sapere se è da associarsi al conto numero 100 o al conto numero 101? Siete d'accordo che devo avere qualcosa che mi li raccordi? Perfetto. E allora avrò anche qua un altro campo che si chiamerà conto codice conto e quindi ci sarà una relazione tra questi due signori, una a molti, dove farò riferimento a quale codice del conto ha fatto il bonifico anziché il bollettino. Quindi ci sarà conto numero 100 ha fatto un bonifico da 1000, conto numero 100 ha fatto un bollettino da 200, conto numero 100 ha fatto un bonifico da 3000, conto numero 101 ha fatto un bonifico da 10.000. Quindi capite che mentre nella tabella 1 il codice del conto è una chiave primaria per cui identifica univocamente il numero del conto con la persona intestataria, nella tabella 2 il codice del conto si ripete tante volte quante sono le operazioni che il singolo conto fa. La tabella 2 chiaramente a sua volta dovrà avere una chiave primaria, io sono messa per comodità, giusto, giusto. La tabella secondaria avrà un'altra chiave primaria. D'accordo signori? Sì. È chiaro così? Sì. Relazione con molti. Quindi ripeto, nella tabella madre sarà la chiave primaria, nella tabella figlia sarà una duplicazione della chiave primaria. Mi serve proprio da campo di raccordo. Viene anche chiamata chiave esterna. A me però non piace tanto il termine chiave esterna, perché esterna mi sa esterna dove? Dov'è? Un altro database? Campo di raccordo mi piace di più. Campo di raccordo serve proprio a raccordare le due. D'accordo? Ora, forte di questo concetto, quindi io qua avrò la chiave primaria 1 che si lega al campo duplicato 2 e la chiave primaria 3 e la chiave primaria 2 che si lega al campo duplicato 3 bis, come dire, praticamente deve avere una duplicazione della chiave primaria 1 e una duplicazione della chiave primaria 2. Campo duplicato 3. Sì, campo duplicato 3 e campo duplicato 3 bis. Praticamente sarebbe la duplicazione della chiave primaria 1 e la duplicazione della chiave primaria 2. Questo è molto. Ripeto, anche questa poi è la parte più complessa, perché se si capisce questo, poi lavorare su Access è come lavorare su qualsiasi altro programma, bisogna imparare, perché in realtà non è semplicissimo, ma si impara. La parte complessa è questa, comprendere i concetti che gli stanno alle spalle. siamo a vedere questi concetti sul programma Access. Allora, io qua inizierò, come vi dicevo, con l'Office 2010, poi di volta in volta magari vediamo di fare dei raffronti con l'Office 2003, poi vediamo anche se questa versione di Office mi funziona, perché l'ho acquistata giusto ieri sera e non so se l'ho acquistata bene. Allora, quando apro Access, mi ritrovo una schermata come questa, ok? In realtà gli utenti dell'Access precedenti gli si aprirà una finestrella con su scritto nuovo database anziché apri esistente, anziché crea in autocomposizione. Ebbene, qua appaiono sulla schermatina iniziale, là appaiono sulla schermatina diversa, quindi ripeto, cambia un po' la grafica, ma concettualmente sono sempre alle solite. La prima volta dovete creare un database vuoto, quindi si apre Access e creo un database vuoto. All'inizio nessuno vi vieta di andare a scegliervi un modello di esempio, magari avere un'idea di quello che si può fare con un modello di esempio, magari a casa se volete provate ad andare a scegliere invece un modello di esempio, vedete che c'è qua la voce modelli di esempio, e potete anche provare a vedere che cosa succede, che cosa vi fa. Però se volessimo iniziare proprio da zero, vado a dirgli database vuoto. Lui vi chiederà poi di inserire il nome del database da qualche parte, nel senso che qua è a destra lì in fondo, dalle altre parti vi appare un'altra finestrella. Però dov'è? Esatto. Quindi vi chiede di inserire un database vuoto, il nome del database. Ed eventualmente di scegliere dove inserirlo. Se tutto va come dovrebbe andare, dovreste arrivare in una schermata simile a questa, dove a sinistra ci sono gli oggetti e a destra c'è il contenuto dell'oggetto. Ora lui, sto maledetto qua, parte già con tabella 1 lì, bella che pronta, ma io non voglio che parte con tabella, per cui paga. Chiudiamola. Allora, la prima cosa da fare è andarsi a creare una tabella. Ora, la tabella io come la creo? Se d'accordo, non c'è prima cosa da fare una tabella. Perché senza la tabella per il contenitore dei dati non posso andare a fare le quelle che va a scrivere le foto di progresso. Iniziamo a crearci una tabella proprio semplice, semplice, semplice. Facciamo la rubrichina telefonica di cui abbiamo parlato precedentemente, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e non se ne parla più. Allora, per l'Office 2003 si clicca su tabelle e poi sul pulsante nuovo. Si apre una finestrella dove si va sulla voce struttura. Su questa versione invece e su quella del 2007, sono praticamente identiche, si va sul menu crea ora, vedete che qua avete due voci, tabella e struttura tabella. Io vi farò lavorare sempre sulla struttura della tabella, quindi su crea e poi alla voce struttura tabella. Ora, indipendentemente che voi lavoriate con l'Office 2000, 2003, 2007, 2010, 2024, non so, quello che vi trovate di fronte è una roba di questo genere, ok? Che ci schematizziamo qua. Vi trovate nome, campo, tipo, dati, descrizione e proprietà del campo. Allora, la prima cosa che dovete fare, signori, è inserire i nomi dei campi che voi volete. Vi ricordate dalle lezioni precedenti che mentre i record erano le righe della mia tabella, i campi erano le colonne. I nomi dei campi sono i titoli di ciascuna delle colonne. Non vi fate fuorviare dal fatto che lì i nomi dei campi li dovete mettere uno sotto l'altro. Nella tabella appariranno uno a fianco all'altro. D'accordo? Perché questa è la struttura della tabella, cioè la progettazione della tabella, che è ben diversa dalla tabella stessa. Cioè qua imposto le regole, nella tabella poi avrò la tabella vera e propria. Ok? Allora, i nomi dei campi quindi li inserisco uno sotto l'altro. La prima cosa da fare è mettergli una chiave primaria, abbiamo detto. Dico bene? Quindi, qua mettiamoci un contatore per non complicarci troppo la vita, poi dopo le altre lezioni vedremo come complicarci la vita. Quindi, il primo campo deve essere la chiave primaria, che chiamerò, abbiamo detto, ID, perché ID sta per identificativo, e poi gli metto un generico contatore. Anche qua, i nomi dei campi, ricordate la convenzione che vi avevo suggerito, cioè mettere tutti attaccati con le maiuscole della prima parola, con l'iniziale della prima parola la maiuscola, ok? Però cercate di farli il più parlante possibile. ID contatore non vuol dire nulla. Per cui, piuttosto che ID contatore, sarebbe meglio un ID di persona o ID amico. Però cercate di farli il più parlanti possibile questi campi. Se io leggo ID persona, so che quella è la chiave primaria della tabella persone e so che una chiave primaria tra cui c'è la voce ID davanti. Quindi una semplice nomenclatura mi dice tutte queste informazioni. Poi metterò nome, cognome, non so voglio descrivere l'indirizzo, metterò numero, telefono, abbiamo detto senza abbreviazioni, quindi proprio numero, telefono. Quindi la prima cosa che devo fare è andare ad inserire i nomi dei campi. Per ciascun nome del campo devo andare ad impostare il corrispettivo tipo di dati. Ora, i tipi di dati che cosa sono? Sono quelli che nella prima lezione vi dicevo aiutano il progettista a fare in modo che chi inserisce i dati compia il meno errori possibili. Quindi se un campo è di tipo numerico, è inutile che lascia la libertà come in Excel all'utente di inserire tutto quel diavolo che vuole. Ma gli dico tipo numerico mi può inserire solo numeri, per cui il tipo di dati sarà numero. Se è una data sarà data. Se è un testo sarà un testo. Quindi inserisco i campi, inserisco per ciascuno di essi il tipo di dati e sempre per ciascuno di essi ne vado a modificare le proprietà. Quindi questo lo scrivetevi per ciascuno e qua anche per ciascuno. Quindi ID persona quando passo nella voce successiva vedete che mi appare la voce testo e un menu a tendina. Cliccando su quel menu a tendina vedete che lui mi dà i tipi di dati disponibili. Vedete? Allora, testo sono caratteri numeri fino a 255. Magari prendetevi un appuntino. Il testo sono caratteri numeri fino a 255. Il testo. Sì. Quella è la dimensione massima. Caratteri numeri fino a 255. Memo. Memo. Sono sempre caratteri numeri anche oltre 255. E allora qualcuno potrebbe venire voglia di dire vabbè ma allora perché non metto sempre memo, non se ne parla più. E attenzione perché il memo occupa tanta più memoria, per cui se voi tutti i campi di testo li mettete memo vi viene un database che nel giro di niente diventa abnorme. Il tipo di dati memo di solito va usato per il campo note, ma per nome, cognome, indirizzo, nome, il 255 caratteri sono più che l'avanzo. se ci pensate, anche nei paesi latini dove magari hanno due cognomi anziché tre nomi, cioè 255 caratteri sono veramente tanti, ce lo posso far stare tranquillamente anche il nome. Il memo è da usare con parsimonia, anche perché poi oltre ad essere più grosso come è, ha anche altri problemi nelle query che andremo a vedere poi più avanti. Numerico, solo e soltanto numeri, quindi non posso mettere lettere, non posso mettere barre, trattini e amenità varie. Vabbè, data e ora, valuta. Ah, numerazione automatica è diventata. Numerazione automatica è quello che nelle altre versioni si chiama contatore. E dico, io qua è la prima volta che lo vedo, però voglio dire, no, per quello che dicevo, una volta che uno capisce i meccanismi, contatore si vede che non faceva più. Sì, no, è un campo o vero o falso. Ecco, il campo vero o falso se ne tende ad abusare. Mettetevi per scrupolo mio, anche se poi tanto non lo farete, ma io mi metto il cuore in pace, è da usare il meno possibile. Cosa vuol dire? Molte volte magari parlo con dei colleghi, magari gli faccio una tabella o gli aggiungo dei dati di una tabella, e che ne so, c'è. Proprio l'altro giorno parlavo con una collega che abbiamo creato una tabella per la spedizione della documentazione dei clienti. Allora a un certo punto aveva la necessità di sapere se la documentazione l'aveva mandata oppure non l'aveva mandata. Mi seguite? Quindi di primo acchito bastava fare un piccolo campo, sì. Documentazione mandata, sì, no. Tutti d'accordo? No. Cioè che non è sbagliato, il problema è che è poco significativo mandata sì, mandata no, mandata quando? Quindi è meglio mettere documentazione mandata, un campo data, se è vuoto vuol dire che non l'ho mandato, se è valorizzato quel campo vuol dire che l'ho mandato e l'ho mandato quel giorno lì. Quindi sì, no, è proprio da usare con parsimonia, del tipo vado all'ASL, faccio gli esami di sangue, hai avuto gli orecchioni? Sì, no. Io evidentemente non è che ne frega niente se ho avuto 5 anni, non ho avuto la 30. Però da sempre di usare il meno possibile. In alternativa è sempre meglio usare delle date, perché di solito il campo sì, no, va a braccetto con una data. Quindi si vede un'altra parentesi, da usare con parsimonia, meglio se si riesce a usare una data. Perché dice di più una data. Ma soprattutto posteriore mi permette di fare anche delle analisi successive. Cioè, se io la pratica l'ho caricata ad aprile e la documentazione l'ho mandata a maggio, è diverso che se non l'ho mandata a settembre. Questo mi permette in un secondo momento di fare anche una valutazione, no, di qualità del servizio. Se è un campo sì o no, e allora l'ho mandata e basta. Mi fermo lì. Vabbè, oggettore lo lasciamo perdere. L'oggettore serve per inglobare degli elementi tipo delle fotografie, anziché. A me non fa impazzire l'oggettore perché di solito è sinonimo di un database che diventa enorme e non bisogna di niente. E poi devo essere sincero fino in fondo, non muori. Non l'ho mai usato, l'ho usato una volta, forse giusto perché spiegavano nei corsi, ho visto che era una schifezza, però fate finta che non ve l'abbia detto. L'oggettore serve a poco. No, scherzi a parte, serve per inglobare nel database degli oggetti, che possono essere delle tabelle di altri programmi, Excel o cose del genere, anche delle fotografie. Però questo tende ad appesantire molto tanto il database. Viceversa, invece dell'oggetto ONE, io uso relativamente spesso i collegamenti iper-testuali. Il termine collegamento iper-testuale magari non lo conoscete a livello di termini, ma lo usate tutti i giorni quando navigate su internet. il brevetto contestuale, quando voi cliccate su una scritta con il coso blu, vi rimanda ad un'altra pagina. Link. E link. Link o brevetto contestuale è molto meglio. Perché io faccio un collegamento contestuale ad una foto, lui mi dice guarda la foto di Ciccio, clicco e mi si apre il programma di foto dove mi fa vedere la foto di Ciccio, ma non è dentro il database e quindi non la appesantisce. Questo però richiede che chiunque utilizzi il database abbia lo stesso... la possibilità di accedere a quella popolazione lì. Cioè un altro programma. Un altro progetto, se può essere una tabella, una foto, un film, perché se io mi posso facendo il database del mio film, può essere un film. Però è giusto l'osservazione sua che mi dice, vabbè, ma allora se io il filmato ce l'ho su C, lo voglio dare a un mio amico il database, il passo il database in ACE sulla chiavetta, o gli passo anche tutti i filmati oppure il filmato di Norvegia, corretto, però diciamo che al massimo se uno non ha necessità ha la possibilità di farlo, però sono casi assolutamente rari, cioè un database sono praticamente contestuali si fa, ma in alcune adesso pensavo a un catalogo prodotti, il classico tavolino rosso giallo verde, sì, deve essere un archivio di foto. Sì, di solito si fa una sottocartella che si chiama immagine anziché filmati e così quando si mette, si dà il database si dà anche tutta la sottocartella. Ma non fa parte del database questo? No, perché è un collegamento esterno. Il collegamento processuale è un collegamento di un oggetto esterno che sta dall'altra parte. Allora di solito la prassi qual è? Fare una sottocartella e lì dentro metterci tutte le informazioni. Chiaro che è sbagliatissimo l'informazione di andare ad acchiappare un po' da una parte, un po' dall'altra, un po' di su, un po' di giù, perché se quella è il database, devi andare a racimolare tutte le cose e metterle insieme, non ha senso. Se caricare una cartella di immagini, sì. Allegato è molto simile all'oggettore, ma anche questo tende ad essere gestito meglio dell'oggettore. Meglio. Però anche questo tende a rappresentare abbastanza il database. Scrivetevi semplicemente che è una sorta di oggettone gestito in maniera migliore. Ma comunque appesantisce il database. Quindi il 18 io non ci sono perché sono fuori Torino, yes. Per cui se qualcuno è 18 ha degli impegni o se vuole prendere gli impegni quindi la prossima lezione c'è, la prossima settimana c'è lezione, fra due il 18 non c'è lezione. Ok, il campo calcolato invece non lo vediamo perché io per prassi preferisco farlo fare alle query. Il campo calcolato a me sembra una grossa forzatura che hanno tirato fuori nella versione 2010, ma secondo me è fuorviante. Nel 2003 non c'è. E secondo me è giusto che non ci sia, perché sennò uno inizia a fare anche campi calcolati nella tabella e diventa una specie di Excel. Esatto, bravo. Invece ha senso proprio che uno capisca che il calcolo lo fa la query. Non fa la tabella. Va bene. Allora, l'ID persona abbiamo detto essere un contatore, per cui gli mettiamo la numerazione automatica o contatore se nella vostra versione di la ricerca guidata vi dà una sorta di menu a tendina, ma io quello preferisco, se vi ricordate dall'anno scorso, fare la maschera, il lavoro della tendina. Quindi scelgo numerazione automatica, ok? E poi dopo andiamo a vedere le proprietà del campo. Quindi passiamo al nome, lascio testo, cognome, lascio testo, e abbiamo detto numero, telefono, e metto numerico. Ok? Ora, a questo punto bisognerebbe andare a vedere tutte le proprietà del campo, ma io vorrei farvi vedere che cosa viene fuori, ok? Quindi a questo punto diamo per pacifico che si vanno poi a modificare le proprietà del campo. Il passaggio successivo è quello di fare clic sulla chiave primaria e premere sulla chiavetta d'oro nella barra degli strumenti. Nella vecchia versione? Anche lì c'è la chiavetta d'oro. Il vantaggio è che se nelle nuove versioni se la chiavetta d'oro non la vedete, vuol dire che siete in un altro menu. Vedete, qua è sparita la chiavetta d'oro. Semplicemente dovete trovare il menu contestuale adatto, che è il menu progettazione. Viceversa, nelle vecchie versioni il problema non c'era perché era sempre lì. Quindi cliccate sulla chiave primaria e poi sulla chiavetta d'oro nella barra degli strumenti. Se la chiavetta d'oro non c'è, cambiate il menu. Che qua si chiama progettazione, nel 2007 mi sembra abbia ancora un nome diverso. Comunque, cambiate il menu, trovate la chiavetta d'oro, tipo la calcio al tesoro, no? È un po' stimolante. Vedete che cliccando su quella chiavetta d'oro appare qua a fianco la chiavettina d'oro e quello vuol dire che una chiave primaria. D'accordo? E clicco sulla seconda X. La seconda X volevo dire, vedete che ce ne sono due di X. Una chiude il programma, quella in alto, una chiude la struttura della tabella, quella in basso. Ma dico quella sotto perché negli altri AC sono proprio una sotto l'altra, per cui sì, comunque sempre sotto. Sotto, sì. Cioè sulla X, non quella per chiudere la finestra, sotto. Quale? Scusa, questa. Ok. Questa qua è quella che chiude il programma, giusto? Qua signora. Sì, no, ho capito. Questa qua è quella che sarebbe per chiudere la tabella. Ok. Quindi chiudo la tabella, lui a questo punto mi dice: vuoi salvare le modifiche alla tabella 1? Certo che sì. Che nome gli vogliamo dare a questa tabella? Persone, e schiaccio invio. A questo punto avrò tra le tabelle la tabella persone. E se faccio doppio clic nella tabella persone, a destra mi apre la tabella persone. Ora vedete, signori, che la tabella persone è molto simile ad una tabella di Excel. Ma se avete letto, avete studiato gli appunti presi la lezione scorsa, due lezioni fa, vi ricordate che vi dicevo simile ma non uguale, perché non ha n colonne fino alla ZZ, ma esattamente le colonne che gli ho specificato io prima nella struttura, e non ha, tra virgolette, infinite righe, sebbene sappiamo che nemmeno in Excel siano infinite, ma ne ha esattamente tante quante gliene vado ad inserire. Nel momento in cui io inserisco il primo nominativo, Mario, Rossi, vedete che lui mi ha attivato una nuova riga sotto. Mario Rossi, numero di telefono 333-444. Luigi Galli 347-347. D'accordo? Quindi mano a mano che io vado a inserire i nominativi, lui mi va ad inserire delle righe sotto. Le colonne saranno sempre quelle. Quando chiudo la mia tabella, sempre con la seconda X, ok? Notate che lui non mi chiede se voglio salvare. Ma questo è normale perché? Perché mentre in tutti gli altri programmi io posso fare delle modifiche al volo, magari stampare e poi chiudere il computer, qua se io faccio delle modifiche è perché quei dati li voglio salvare, per cui il programma me li salva in automatico. Se in un secondo momento voglio andare a modificare la struttura della tabella, perché ad esempio gli voglio andare ad aggiungere un campo, clicco sulla tabella col destro e vado su struttura. Quindi in un secondo momento, se voglio modificare, aggiungere dei campi o cambiare le proprietà dei campi, faccio clic destro sul nome della tabella e clic su struttura. Poi che si chiami struttura, visualizza struttura o quello che è, come si chiama struttura, è sempre una squadretta blu, ecco il simbolino almeno non lo cambiamo. È sempre la squadretta con l'arco. Per cui cliccando di sopra vedete che automaticamente lui mi va nella struttura che già visto precedentemente. Io creo una tabella, però poi voglio che chi la utilizzi, non vada a modificare. In modo che io sono l'amministratore e gli altri poi sono un po'. Vedremo. Tra molti step, sì. Diciamo che questo è proprio la parte propedeutica al punto. Ok. È chiaro che voi adesso dovete iniziare a prendere confidenza con la singola tabellina e con quello che la tabellina comporta. Lo scopo di queste prime lezioni, allora, fino ad oggi in queste due lezioni e mezzo abbiamo fatto molta teoria. Ora stiamo andando, lo scopo di queste prossime lezioni sarà quello di andare ad acchiappare tutta questa teoria e a vederla nella pratica. Quindi dire, ok, vi ricordate quando parlavo dei campi, chiave primaria, record, tabelle? Si fa così. Vi ricordate quando si parlava di query? Si fa così. Vi ricordate quando si parla di master? Si fa così. Ora, una volta visto a livello pratico le due cose, rifaremo un po' di teoria, in modo che voi nel frattempo sedimentate un po' le informazioni, e dopo si passa alla parte più... No, non serio. Mi viene cazzuto quando si può dire. Tosta. Alla parte più tosta, ok? Quindi la parte nella quale si mettono in relazione le tabelle, si fanno le maschere e quelle su più tabelle, e allora lì si inizia a lavorare per... No. Però è chiaro che dovete avere una certa confidenza con questi strumenti. Ora, a casa io che cosa vorrei che facesse? A casa vorrei che iniziasse a fare questo lavoro qua. Aprite Access, create un database vuoto e createvi la prima tabella persone. Proprio con quattro campi in croce, non dovete fare chissà che cosa. dovete prendere confidenza con questo strumento. Quindi andate a fare una tabella persone con ID persone, nome, cognome, numero di telefono, email, cioè metteteci quello che volete. E come dice anche l'email, perché l'email poi la prossima lezione mi apre il fianco ad un altro discorso. Anche email. E provate, allora, il tipo di dati l'abbiamo visto, non abbiamo visto le proprietà del campo. Le proprietà del campo le vedremo la prossima settimana, ma questa settimana provate a darci un'occhiata, cercate di essere curiosi, cercate di dare un'occhiata, che cosa vuol dire? Ecco, banalmente, una cosa che dovreste notare, ecco, vedete anche la data di nascita. E no, perché queste cose qua ci daranno poi la prossima settimana degli spunti di riflessione. Banalmente, una cosa che dovreste notare a casa è che le proprietà del campo, se io vado da un campo di tipo dati a un campo di tipo testo, cambiano. Da un campo di tipo testo a un campo di tipo numerico, cambiano. E allora cercate di andare a vedere quali sono le implicazioni da un caso all'altro, poi ripeto, approfondiremo la prossima settimana, ma quantomeno avete idea di cosa sta parlando. Scusa, sia per data di nascita e neanche le mail, sempre numerico? Sempre? Numerico dobbiamo scrivere qui a fianco. Ah, come tipo di dati? Allora, data di nascita sarà data ora. Email? Testo. Perché il testo, forse non l'ho detto, possono essere, sì, sono lettere o numeri. Come l'indirizzo. Lettere, numeri, ma anche simboli, quindi l'underscore, anziché il punto virgola, li posso mettere nel testo. Il testo è proprio un campo libero, cioè posso mettergli più o meno tutto. D'accordo? Quindi senza dubbio un testo. Ok. Signori, domande da parte vostra? Diremo la prossima volta. Ok, allora io domani o più tardi lunedì vi manderò una mail. Quindi martedì dategli un'occhiata, perché entro martedì vi arriverà l'invito al gruppo. Cercate di scrivere tutti, di modo che io magari già da giovedì o venerdì inizio a mandare il materiale dello scorso anno, quindi le lezioni dello scorso anno. E poi con i compagni stiamo facendo anche un piccolo esperimento, sto andando a inserire le varie lezioni in maniera molto, come dire, avversariera, nel senso che stiamo buttando due cose, in realtà più vani che non io, però in maniera molto veloce, cioè senza stare lì a guardare i moduli. Per cui di volta in volta, o magari una volta ogni due settimane, buttare giù magari degli appunti che vi manderò. Per cui se siete tutti iscritti al gruppo, lo ricevete tutti, altrimenti no. Per la prossima settimana, oltre a questo, cercate di fare questa tabella persone. Non vi scoraggiate se non ci riuscite. La prossima lezione, però, ditemelo, magari lo rifaccio vedere. Se voi non mi dite nulla, io partirò da qua, quindi dalla proprietà dei campi, e inizierò già magari ad impostare una maschera anziché un record. D'accordo? Buona settimana, ci vediamo venerdì prossimo.